Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Aspettando mestamente gli esiti dell'autopsia, che è in corso a Pescara da un paio d'ore, ci si continua a interrogare sui molti aspetti, che sono davvero tanti, legati a questa tragedia. Una rapida rassegna stampa di stamane, Di Natale ribadisce che il calcio italiano va troppo veloce e che lui già l'anno scorso aveva pensato di ritirarsi. Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, dice: noi domenica senza defibrillatori su tutti i campi non giochiamo, cioè non ci pensiamo proprio. Il PM che sta indagando sulle indagini dice: beh, la macchina dei vigili è una rilevanza inesistente, rimane quindi insomma tutta la gravità del comportamento, ma non c'è un, almeno al momento non è stato accertato un nesso. Ma poi tanti altri spunti, tante altre soprattutto riflessioni. Il dottor Volpi, che tante volte avete ascoltato questi microfoni e che sentiremo poi una volta che sarà chiarito l'esito dell'autopsia, fa un discorso serissimo a parer mio, perché dice: non c'è relazione fra questa tragedia e il superlavoro, però porre questa questione è legittimo, perché è un problema fondamentale per il futuro dello sport. Io sinceramente non so da dove cominciare e allora lo domando, chiedo aiuto a Gianni Murak, storica firma di Repubblica e direttore del mensile Emergency. Gianni, ciao. Ciao Gigi. Senti, facciamo così. Partiamo da un frammento di quello che hai scritto ieri, perché al momento mi sembra, al di là della suggestione di quel verso fantastico di Chico Buarque de Hollande che hai citato, mi sembra al momento la partenza giusta. Tu hai scritto: c'è chi dice che il cuore degli atleti, per gli sforzi che fanno, è più esposto, spesso ipertrofico, ma la vita ci ha detto che di cuore muoiono obesi e fumatori, elettricisti e scrittori, banchieri e disoccupati. Forse è meglio essere fatalisti che affannarsi a cercare risposte che poi magari ci viene batticuore. Ci sono morti che diventano di tutti, e quella di Morosini lo è, come nell'ultimo verso della Costruzione, una canzone che Chico Buarque de Hollande scrisse nel 71 per un muratore volato giù dall'impalcatura. È morto contromano intralciando il sabato, uno dei più bei versi che ho letto negli ultimi anni. Come ti è saltato fuori? Mi è saltato fuori perché, se devo dire tutta la verità, la rubrica era già a tre quarti e parlava d'altro. Perché dovevo sbrigarmi, perché alle 6 c'era il Milan. Certo. E quando è arrivata la notizia di Morosini che stava male e poi che è morto, io ho guardato quello che avevo scritto e ho deciso che... Cioè, sai quando ti passa la voglia di fare tutto? Sì. E non so dove vorresti essere, però io non volevo essere lì, non volevo andare avanti a scrivere parlando di Cellino o di Balotelli, e sentivo che dovevo scrivere su questo ragazzo, e quindi ho pensato un po', perché ero fuori dalle pagine, diciamo, dedicate alla disgrazia. Certo. Che erano poi quelle d'apertura. Certo. E quindi ho cercato di ragionare intorno al cuore, facendo un pezzo, credo, di cuore, infatti. E mi è venuto in mente, come mi era venuto in mente un verso di Alfonso Gatto, mi è venuta in mente questa canzone che è stupenda. L'hanno incisa in italiano anche Iannacci, Lavanoni e credo anche Fiorella Mannoia. Nella traduzione italiana dice: è morto contromano ostacolando il sabato. E comunque in portoghese è come una macchina in seconda fila, è un intralcio. Certo, a proposito, no? E quindi io ho cercato di ragionare sull'atleta, su come lo vediamo oggi. Quello che dicevi tu, riportando le frasi di Volpi, secondo me è sacrosanto. Cioè, ecco, e forse partiamo proprio da qua, partiamo da una riflessione su questo carico, no? Su questi carichi eccessivi di lavoro. Poi giustamente quando si parla di calcio e si dice lavoro, Bagnoli si ribella e dice no, perché, certo. Perché l'étude meno che lavora, ma questo, lui è un vecchio saggio, un vecchio filosofo. Ragioniamo in termini di prestazioni e di sforzi. Allora, è stato giusto, poi magari parliamo anche di questo, è stato giusto, è stato inevitabile, fatale, rinviare questa giornata. Però cosa succede adesso col calendario ipercompresso che c'è nel nostro calcio? Che in 14 giorni si giocano 5 giornate di campionato, e cioè si gioca domenica 22, mercoledì 25 per questo recupero, domenica 29, mercoledì 2 maggio perché era già previsto l'ultima infrasettimanale, e poi di nuovo domenica 6 maggio. Ora, il destino, la fatalità, magari le malformazioni, questo lo vedremo, sono un'altra cosa, ma dire che possa far bene a fine stagione un tour de force di questo genere non credo. No, se pensiamo anche che possono arrivare i primi caldi e che comunque si tratta di atleti abbastanza spremuti. Ora, quando si parla di queste cose c'è sempre un'obiezione che io immagino facciano magari anche quelli che ci stanno ascoltando, se non tutti in parte, ed è, come direbbe Bagnoli, che questo è uno sport e c'è gente che lavora 8 ore al giorno alla catena di montaggio per 1200 euro se li prende e che forse ha più diritto di sentirsi stanca di un calciatore di Serie A. È vero, però in questo momento ragioniamo dei calciatori di Serie A e di come sta andando il loro sfruttamento intensivo, io direi, perché c'è stata, tu hai parlato di 5 turni in 2 settimane praticamente, sì. Ma c'è stata nel calcio e in tutti gli sport un'accelerazione dovuta agli introiti televisivi. Vedi anticipi, posticipi, questo per quanto possa sembrare strano a uno che fa 8 ore alla catena di montaggio, questo un po' ti sballa, proprio perché l'atleta è un motore, un meccanismo metodico, per cui ha i tempi di sforzo e ha anche i tempi di recupero. Deve avere i tempi di recupero. Ecco, certo. Se non ha i tempi di recupero succedono alcune cose che non necessariamente portano alla morte, ma secondo me portano certamente ad alcune considerazioni che se vuoi facciamo. Come no? Allora, la prima è che quando appunto alcuni passatisti come me dicevano ma si comincia a giocare troppo e ti opponevano alla realtà di rose di 28-30 giocatori, sì, che ormai hanno tutti, non solo il Milan, ce li ha anche il Chievo 28. Certo. Benissimo, allora vediamo come sono usati questi 28, perché poi mediamente squadre, il Milan credo sia in cima all'elenco degli infortunati lungodegenti, ma comunque non c'è domenica in cui una squadra tra infortunati squalificati non abbia 7, 8, 9 assenze, una volta la Lazio 12. Questo cosa vuol dire? Che giocano quelli sani e anche quelli un po' così e così sperando che tengano. Vuol dire che si rischia anche uno come Thiago Silva, per esempio. Vuol dire che si arruolano quelli che comunque, non dico garantiscono 90 minuti ma almeno 45, vuol dire, in parole brutali, raschiare il fondo del barile, perché il turnover non lo fa volentieri quasi nessuno in Serie A. Nessuno. E quindi vero, di questi 30 giocatori ce ne sono almeno 15 o 18 che giocano una 60 di partite in una stagione, naturalmente contando Coppa Italia, campionato, quelli bravi diciamo, e ce ne sono altri che già tanto si mettono assieme 180 minuti in un campionato. Quindi dov'è l'alternanza, dov'è il turnover? Non si sa, probabilmente è fumo negli occhi. Il secondo risultato è che si continua a parlare di spettacolo, chiedendo questo spettacolo non solo in termini di gol ma anche di velocità, che è la parola magica, come no, a gente che di birra ne ha sempre di meno. Sì. Perché ne ha sempre di meno? Torniamo ai tempi di recupero, cioè esisteva una volta, come sanno gli anzianotti come noi, il famoso ritiro precampionato in cui giocavi con i ferrovieri e nonno con Real Madrid, ma esistevano soprattutto dei tempi di recupero nella settimana, per cui quando si giocava di meno, in genere l'allenamento più impegnativo era il mercoledì, a volte il doppio turno, e poi si andava man mano scalando verso la domenica. Non dimentichiamo poi un'altra cosa, che trattandosi di una categoria privilegiata è chiaro che le trasferte non le fanno in terza classe fumatori come una volta, che però anche per quanto è lunga l'Italia ci sono molte ore che vanno via in viaggi o in attesa di aerei che tardano o non partono o comunque. E quindi l'arco di impegno di un calciatore o i tempi di recupero diminuiscono. Sono anni che io sento dire che ormai è praticamente impossibile allenarsi per squadre con un grande calendario, e si vede pure, e si vede pure in campo. Quindi il discorso di Volpi va affrontato. Io non so come potranno risolverlo, perché se nemmeno con 30 giocatori tu riesci a dare del respiro a quelli che vedi stanchi, e che una volta gli si diceva vai una settimana in montagna e poi torna, certo. Ecco, diventa difficile. Cogliendo anche l'occasione del calcio scommesse, domanda Andrea: non potremmo ridurre la Serie A da 20 a 16 squadre? Ma io credo che se possiamo cogliere questa, purtroppo, questa tragedia, il calcio scommesse, qualsiasi cosa può ritornare a 20, a 16 o almeno 18 squadre, e per dare quindi un senso a quello di cui Gianni Mura stava parlando, a queste riflessioni. D'altra parte, non può essere certamente la Confindustria del calcio oggi a pensare a, come dire, al futuro, cioè a gettare nuove basi di convivenza, se vogliamo, migliore. Perché? Ma perché anche in un'occasione come questa si sono divisi e si stanno letteralmente scannando sul recupero, e cioè se la giornata sul dilemma atroce, no? Se la giornata di ieri, mancata ieri, vada recuperata, slitti automaticamente al prossimo fine settimana, o se invece si debba rispettare il calendario del prossimo fine settimana e questa giornata saltata per le ragioni che sappiamo non vada invece recuperata in questa nuova data trovata, che è quella del 25 aprile. Mi pare ampiamente condivisibile la mesta conclusione di Baldini, direttore generale della Roma. Ma io ho detto mesta, ma in realtà è violentissima, perché dice, usando il plurale, alla fine riusciamo ogni volta a dimostrare quello che siamo, persone che anche nelle situazioni più tragiche non riescono a non cadere nel ridicolo. Gianni, mi pare abbia fatto un discreto ritratto della Lega Calcio, no? Sì, io penso che la Lega Calcio sia ridicola già da prima di questa vicenda, sì. Peraltro, come per la serie non si smentiscono mai, va bene. È importante, secondo me, che comincino a levarsi delle voci contro, non da parte dei soliti giornalisti prevenuti o dei tifosi, ma che proprio dall'interno delle squadre cominci a nascere un senso di insofferenza verso una Lega che tutto è meno che una Lega in senso etimologico. Infatti io la chiamavo Slega, e che riesce veramente a zuffarsi per interessi di cortile anche su queste cose. Adesso a me personalmente è del tutto indifferente che l'uno ci sia il calendario, esatto, rispettato, previsto, uh-huh, per domenica o per mercoledì, tanto bisogna farle, poi c'è chi calcola i chilometri di distanza, eccetera. Direi che il primo effetto, di cui non si è parlato molto, di questo recupero obbligato per la morte di Morosini, è che salta il famoso stage di Prandelli. Prandelli, certo. È vero, e infatti una delle conseguenze, diciamo pure gravi, perché Prandelli poi ha fatto molta fatica ad ottenere questa data libera, questo giorno e mezzo in cui fare un allenamento specifico per reparti e fare quattro chiacchiere con i giocatori, giusto per non ritrovarseli, non dico sconosciuti, ma insomma quasi a dover fare la presentazione al momento del raduno. Gianni, dato che leggo molti messaggi che stanno arrivando anche in tempo reale, mi aiuti a capire, a spiegare? Io stesso ogni tanto, devo dire, ho qualche dubbio in materia. Perché è stato giusto fermarsi immediatamente? Cioè perché è stato giusto non giocare? Io non sto dicendo che così non fosse, intendiamoci. Però è questo automatismo, perché alcuni che scrivono, che non sono d'accordo, dicono: beh, ma se ogni morto sul lavoro la categoria d'appartenenza si dovesse fermare, voi capite bene perché per i calciatori sì, perché insomma c'è sempre questa cosa un po', sì, di fondo. Sono una classe privilegiata, decidono loro quando fermarsi. Se cade un muratore, poveraccio, dispiace, ma la costruzione va avanti. Questa è una tesi rispettabilissima. Io posso dire perché ho ritenuto giusto che non giocassero. Sì. intanto perché non è una questione di morti di classe sociale, secondo me è una questione di morti indiretta, ossia noi non calcoliamo a volte che il sentimento o l'emotività o il dolore è moltiplicato dai cosiddetti social network. Sì. Per me, per esempio, vedere che il Real Madrid faceva un minuto di silenzio per Morosini e il Barcellona aveva addirittura il lutto al braccio, sì. Sono delle cose che hanno fatto di loro iniziativa, non gliel' abbiamo certo chiesto noi italiani. Questo vuol dire che un ragazzo nemmeno notissimo in Italia che gioca nel Livorno in Serie B, morendo sul campo, fa ragionare tanti che fanno il suo mestiere su quello che è il loro mestiere. E io credo che sia successo un po' come al Tour quando è morto in discesa cadendo Casartelli, lì non ci si può fermare un giorno, però hanno fatto praticamente un funerale di 250 km andando a 25 all'ora su 5 passi pirenaici. Allo stesso modo, se guardiamo, trovo abbastanza pelosa la distinzione che fanno alcuni, tipo era giusto non giocare sabato, però si poteva giocare domenica. Io credo che il dolore e lo smarrimento di chi ha giocato, vedi Di Natale, l'Udinese e tanti altri, con Morosini andasse rispettato. Credo che abbia fatto bene. Dopo qualche esitazione, suppongo, perché il primo comunicato della Federcalcio parlava di un minuto di raccoglimento. Sì, sì, infatti era molto più tempo. A decidere che non si giocava. Naturalmente questo crea un precedente, perché toccando ferro, se morisse, spero tra 100 anni, un giocatore di Serie C, sì, ci si chiede se si deve fermare l'A e la B o se basta un minuto certo, di raccoglimento. Certo. È molto difficile da dire, direi che il calcio negli ultimi anni comunque è diventato un, mentre prima era totalmente refrattario, adesso è totalmente esposto a richieste di minuti di raccoglimento che vanno dalle catastrofi naturali come un terremoto, un'alluvione, ai soldati morti in Afghanistan. In sì, quella che ci si ostina a chiamare missione di pace. Certo. A proposito di. Sì, a proposito di. e anche di altre iniziative, vedi, lotta contro la distrofia, la sclerosi multipla, il cancro. Quindi non c'è domenica che il calcio non porti un messaggio entrando sulle maglie o comunque facendo un minuto di raccoglimento, eccetera. Quindi se il calcio decide di celebrare, di fare silenzio, direi proprio. Silenzio, di fare silenzio per uno, ecco, dei suoi. Di staccare la spina davanti a uno dei morti suoi e che sente suo, perché questo è importante. Io credo che in poche cose i calciatori in generale dimostrino la loro compattezza come davanti a una disgrazia che li tocca. Certo. Io non ci trovo niente di sbagliato personalmente e a volte mi dico se morisse quello della scrivania di fianco a me, io sarei capace di andare avanti a fare il menabò o a finire il commento come se niente fosse. Non credo, non francamente. Cioè, io credo che come gli eccessi di questo calcio riguardano l'esasperazione del motto olimpico, del Cicius Alcius Fortius, cioè più forte, più in alto, più veloce. Ecco, io a tutto questo penso che si debba opporre lo slow per quanto è possibile anche nei calendari. Certo. E in generale in generale la riflessione e il silenzio, perché altrimenti così è una corsa al macello. Non c'è dubbio. Gianni, salutaci il tuo vicino di scrivania. Va bene, certo che staranno già facendo scongiuri. Non è difficile. No, ma io l'ho detto perché non ho vicini di scrivania, ho un monolocale. Boh, quindi buon lavoro nel monolocale. Ok, grazie. Ciao a tutti. Grazie. Stamane è morto a Roma Carlo Petrini, ex attaccante della Roma, del Milan, del Torino. aveva 64 anni, era molto malato da anni, e era stato uno dei primi a denunciare l'uso del doping nel mondo del calcio, in particolare negli anni 60-70, e da allora si era un po' trasformato in una sorta di fustigatore del mondo del pallone, con qualche concessione, secondo me, anche alla mitomania. Questo non toglie che Carlo Pedrini sia stato in carriera certamente un buon giocatore, e abbia poi vissuto una vita molto molto difficile per ragioni di salute e per ragioni familiari. Stamattina, ripeto, all'età di 64 anni si è arreso all'ospedale di Lucca. Abbiamo non lo so, abbiamo centinaia di mail da cui trarre fior da fiore. Io qualcosa vi leggerò dopo, perché ho trovato ho letto delle cose vostre, scritte da alcuni di voi, veramente, veramente interessanti, quindi da condividere insieme in giornate come queste. Abbiamo anche qualche contributo vocale significativo. Per esempio, vi dicevo prima di quella riflessione a voce alta che Di Natale ha fatto sulla sua stessa carriera, ne sentirei un frammento. Ma io lo dico da tanto, è 2 anni che lo dico, che il nostro dottore parlano anche con i professori. Io ho 34 anni, io già dall'anno scorso, che scherzando con loro, ma pensavo davvero che io avevo voglia di smettere quest'anno, perché secondo me c'ho troppe partite e non riesco neanche più a riposare. Credo alla fine il calcio è bello, uno sport importante, però c'è anche la salute. Alessandro scrive da Modena: vorrei che il minuto di silenzio sui nostri campi fosse come quello di Spagna, cioè vero e rispettoso silenzio anziché l'applauso, quando va bene, che si sente da noi. Una semplice lezione di civiltà che noi, ha ragione Alessandro, da tempo abbiamo dimenticato, e ogni tanto in effetti potremmo anche concederci un ripasso dei fondamentali, cosa che però non accade mai molto volentieri. Poi ci sono per esempio 2 mail veloci che adesso vi leggo appena arrivate. Mauro Caratti scrive da Acqui Terme: il discorso del perché non ci si doveva fermare è opinabile. Se uno muore sul lavoro, purtroppo il lavoro non si può fermare per una molteplicità di motivi, ma se si muore durante un gioco sarebbe raccapricciante non fermarsi, e questa credo che sia alla fine la vera ragione del perché era giusto. Forse non va usato l'aggettivo giusto, perché era inevitabile, perché era fatale fermarsi. Mentre invece Marco Traversi, che è un altro affezionatissimo di questo programma e non solo, del blog e di tutto il resto, fa una riflessione in controluce, in chiaroscuro, che io condivido. E come, dice, una domanda mi frulla nella testa dopo aver ascoltato le parole del portiere del Livorno, che ha rilasciato interviste molto ma molto interessanti, che io stesso ho letto. Lui stesso, cioè il portiere Livorno, aveva scoperto la situazione personale del povero Morosini giusto pochi giorni fa, scrive Traversi. Siamo sicuri che Moro, come oggi tutti affettuosamente lo chiamano, anche quelli che manco sapevano che esistesse, avrebbe voluto tutto questo? Io credo che questa sia una domanda lecita, sia una domanda anche intelligente, soprattutto intelligente, perché da quel che si è ricostruito di questo ragazzo sventurato, già prima di fare la fine che ha fatto, dire che avrebbe avuto piacere di tutta questa ribalta, qualche dubbio credo che sia lecito. Un racconto di chi era Morosini lo ha fatto uno dei suoi primi allenatori all'Udinese, cioè Giovanni Galeone. Ma io l'ho allenato nel 2006-2007, ho avuto modo anche di farlo giocare. Il ricordo è quello che è stato espresso unanimemente, direi, in questo caso, da tutti quelli che lo conoscevano. Un ragazzo splendido, buono, soprattutto dolce, anche se aveva sempre un velo di tristezza negli occhi. Un ragazzo tecnico come qualità calcistica. Qualità umane le aveva tutte, qualità calcistica era un buon giocatore che probabilmente avrebbe meritato di più di quello che aveva fatto fino adesso. Era andato in varie squadre, sempre in prestito, perché l'Udinese in fin dei conti forse ci credeva sempre, ed era sempre stato accettato in tutte le squadre in cui era andato, da Vicenza a Bologna, da Livorno ancora ritorno a Vicenza, dove in tutti credo abbia lasciato un ottimo ricordo per la sua facilità proprio a entrare nell'ambiente dei giocatori. Sentite questa lettera arrivata da Pescara e firmata dall'avvocato Matteo Cavallucci, è molto lunga e quindi cercherò di sintetizzarla, ma sentitela perché mi ha emozionato leggerla. Decido di andare allo stadio all'ultimo momento, quando la pioggia incessante del mattino lascia spazio a una timida schiarita. Alle 14.40 prendo il biglietto, dopo 10 minuti sono al bar della Tribuna Adriatico, ho appuntamento con il mio amico Armando, eccetera. Il clima è già surreale, perdura l'alone di tristezza che solo due settimane prima ha colpito l'ambiente con la scomparsa improvvisa a 43 anni di Franco Mancini, preparatore dei portieri e fedelissimo di Zeman. Ce ne sarebbe, riprende a piovere, ce ne sarebbe abbastanza per andarsene subito a casa al riparo, ma la partita prosegue nel suo cliché, eccetera. Poi l'avvocato Matteo racconta di questo infortunio al portiere Livorno, uno scontro di gioco, eccetera. L'azione si sviluppa sulla tre quarti e sullo sfondo, nella nostra prospettiva opposta a quella televisiva, un giocatore del Livorno cade a terra, scomponendosi nella corsa. Pur seguendo l'azione principale, la coda dell'occhio resta su quel giocatore che si rialza e in tanti sorridono per lo scivolone sul terreno viscido. Ma il giocatore cade una seconda volta, quasi da fermo, sulle ginocchia, scartando maldestramente di lato. Mi fa pensare a Berbick contro Tyson. Quando cade per la terza volta, mezzo stadio ha già smesso di seguire il gioco perché ha capito tutto. È in piedi e ingenuamente cerca di richiamare l'attenzione dell'arbitro che sta seguendo la palla. Le panchine sono già schizzate in campo, i giocatori hanno tutte le mani al volto, noi dagli spalti le abbiamo tra i capelli. Il resto è noto, eccetera. Continua ancora questo racconto e lo conclude così: decidiamo di restare ancora un po' fermi sulla gradinata in silenzio, poi qualcuno si prende la briga di controllare sul giornalino distribuito all'ingresso chi sia il numero 25 del Livorno. Morosini Piermario, centrocampista 1986, speriamo non muoia, è il pensiero di tutti, ma speranza ce n'è poca ed è la penultima a morire questo sabato 14 aprile all'Adriatico di Pescara. Ripeto, firmato Matteo Cavallucci, un avvocato che mi pare che scrivere sappia discretamente. Lorenzo ha chiamato da Cesena, buongiorno. Buongiorno Garanzini, volevo fare una considerazione e poi ascolto la sua risposta per radio. Per quanto riguarda lo slittamento dei campionati, domenica prossima ci dovrebbe essere Juventus-Roma, non sarebbe il caso di tenere così, ad esempio tenere Juventus-Roma, questo per salvaguardare... Questo parlo anche per le altre partite, tutte quelle persone che hanno acquistato, non so, il biglietto del treno, il biglietto dell'aereo e l'albergo, che a differenza dei biglietti della partita, se per caso cambiano data, non gli viene rimborsata. Ecco, volevo sentire la sua opinione. Guarda, grazie. La mia opinione, Lorenzo, è che qualcuno e qualcosa bisogna scontentare e a qualcuno bisogna far torto. Allora, se la vediamo nell'ottica dello spettatore, lei ha certamente ragione. La giornata di ieri, chi ci ha rimesso i soldi dei viaggi e tutto il resto, ormai ce l'ha rimessi. Tanto vale tutelare i prossimi spettatori. Lei ha citato Juventus Roma, citiamo tutte le partite del campionato, che è meglio. E per l'appunto, visto che la giornata saltata viene recuperata in una data apposita, facciamo passare la giornata di ieri in una data apposita. Questo è il ragionamento, è un ragionamento. Ce n'è un altro che invece è più strettamente sportivo nel senso di classifica, intendiamoci, però lo è e ha un suo diritto, che è quello: la situazione di classifica oggi è questa, erano in programma queste partite, a 6 giornate dalla fine gli ostacoli sono di diversa entità. Ci sono ammonizioni, diffide, insomma, già in essere, e quindi rispettiamo il calendario com'era e non cambiamo, e lasciamo che il campionato faccia il suo corso esattamente come era previsto prima di questa tragedia. Mi pare che sia altrettanto legittimo questo ragionamento. Abbiamo apposta una Lega di Serie A, questa Lega è presieduta da un dimissionario da più di un anno, no? Il comandante Beretta. Questa vicenda di queste, appunto, di questa dimissione, del fatto che questa Lega sia paralizzata, eccetera, ha detto bene Gianni Mura prima, definendola ridicola già prima di questa, dei litigi di queste ore. Da ridicola in su, lei scelga l'aggettivo che meglio le aggrada, e avremo il ritratto di come è governato il calcio italiano di club, perché qui non si parla di federazione, si parla di club. Tocca a Nicola Filippone e al suo 16 aprile. Sembra ieri. 16 aprile 1967. L'Inter di Herrera, capolista, vince in casa dal Venezia per 3-2, inguaiando ulteriormente la situazione di classifica dei veneti, già penultimi. Ma alcune decisioni controverse dell'arbitro Sbardella scatenano proteste a fine gara. Nel commentare gli episodi incriminati in privato con un amico giornalista, il designatore, l'oculista veneziano Giorgio Bertotto, coni a sua insaputa un'espressione fortunata, che sarà usata molto frequentemente per definire l'atteggiamento dei direttori di gara verso le squadre più importanti. Purtroppo gli arbitri, sostiene Bertotto, ignaro che le sue parole finiranno il giorno dopo sul giornale, soffrono di una sorta di sudditanza psicologica nei confronti delle grandi società. La teorizzazione della sudditanza psicologica determinerà roventi polemiche e a fine stagione, di fatto, costerà il posto a Bertotto. La sudditanza psicologica il 67 compie 45 anni oggi, e questa espressione fu coniata da un oculista veneziano che allora faceva il designatore arbitrale. Bravo, bravo Nicola Filippone, grazie. Grazie davvero. Stefano ha chiamato da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Io mi volevo legare al discorso che aveva fatto il suo ospite prima, Gianni Mura, relativamente allo stress fisico che subiscono i giocatori con un calendario molto fitto, pieno di eventi, eccetera, eccetera. E vabbè, che può, come nel caso di Morosini, addirittura aver portato a certi risultati. Credo che dovremmo guardare ad altri sport, come è stato per esempio, mi viene in mente uno dei esempi più eclatanti, alla Formula 1, dove si interviene spesso e regolarmente sul regolamento proprio per ridurre... Sì. Lei ha usato la parola sport a proposito della Formula 1, facciamo finta che sia così, eh? Sì. No, perché c'era in precedenza, c'era... No, mi scusi, l'ho interrotta anche per questo, perché poco fa c'erano un paio di messaggi che dicevano, che ricordavano come il giorno della morte di Senna, e questo uno di loro sottolineava, e ho detto a Ayrton Senna, si corse regolarmente quel Gran Premio, no? E appunto parlava del fatto che non sempre lo sport si ferma, per cortesia, vediamo già la parola sport, già sul calcio di oggi è usata discretamente a sproposito, ma vediamo di non esagerare sprecandola anche per la Formula 1, insomma. No, volevo solo dirle, era un discorso diverso, il mio era relativo alla sicurezza dei giocatori, proprio per loro, e cercare di entrare, non so, nella dinamica dei regolamenti, ove possibile, quindi non lo so, introduzione di un quarto sostituto, piuttosto che, anziché, faccio degli esempi, adesso butto lì a caso, anziché fare la partita di due tempi da 45 minuti, tre tempi da 30, questo per logorare il meno possibile il fisico dei giocatori. Ecco, io credo che sarebbe una direzione da guardare. Io no, però certo che tutte le opinioni sono valide, e tutte le direzioni, come dice lei, sono perlustrabili. Scrive Pier Vincenzo Monaci: la puntuale e giusta decisione di sospendere tutte le partite è stata, a mio parere, quasi vanificata. Perché? Perché 60 milioni di italiani hanno improvvisamente scoperto di essere tutti laureati in medicina, oltretutto medici bravissimi che non hanno nemmeno bisogno di aspettare l'autopsia, e hanno immediatamente capito come era morto Pier Mario Morosini. Medici molto patrioti, per i quali se muore un atleta a chiasso è un segno che all'estero non fanno controlli adeguati. Se invece muore 10 metri più in là, in territorio di Como, Vuol dire che è tutta colpa del destino cinico e baro, dato che i controlli in Italia sono sempre fantastici. In attesa di un'apparizione soprannaturale in qualche stadio e che tutti indossino l'abito talare e si scoprano finissimi teologi e sacerdoti e chiedano l'immediato allestimento in una cappella in ogni stadio, la saluto fiducioso che almeno lei non si sia nel frattempo laureato in medicina con un corso di 24 ore. Gran bella lettera, caro Pier Vincenzo. No, le garantisco che non sarei comunque più in grado oggi di apprendere nemmeno con un corso super accelerato. Giuseppe Pavia, buongiorno. Buongiorno, signorina, sì. Sono un medico, volevo, indipendentemente da quella che, volevo soltanto dire questo, indipendentemente da quella che è la diagnosi di morte, che ovviamente sarà supportata da ulteriori indagini, dall'autopsia, eccetera, eccetera, quello che salta agli occhi di molta gente, in modo particolare di un rianimatore, come io lo sono, è quello che nel momento in cui lui passa dalla barella all'ambulanza, Morosini non è intubato, non c'è ventilazione polmonare fino a quell'istante, anche se c'è una maschera, quella è una pratica estremamente complessa che va fatta soprattutto da un rianimatore e comunque non garantisce allo stesso modo, come lo garantisce invece la intubazione delle vie aeree, il ripristino dell'attività polmonare. Ora sappiamo perfettamente che non si può comunque far ripartire, questo a prescindere, poi non sarebbe servito a niente, non lo so, però non si può far ripartire un cuore se non si ossigena a pieni polmoni con un'intubazione che appunto ventili entrambi i polmoni. Ecco, in quel caso l'intubazione non c'era. Io mi chiedo come mai non è stato intubato, come mai era malamente ventilato e perché allora, cioè il mio dubbio è come mai si dà molto peso ai medici sportivi che a mio parere non hanno, sì, magari avranno la preparazione ma non la pratica importantissima per poter rianimare, per poter praticare una BLS a... Giuseppe, è evidente che io non le so, non sono all'altezza di dare una risposta. Ho ricevuto altre lettere di questo, più o meno di questo tenore. Per esempio il dottor Vincenzo Spinola ha scritto da Bussoleno, provincia di Torino, facendo una lunga disamina, magari se domani c'è tempo ne proverò a leggere una parte, perché è un confronto tra i casi Mwamba, che era accaduto in Inghilterra il mese scorso, e il caso Morosini. Invece posso invitare un medico e sottoporre a loro le vostre teorie, ma insomma io ho molto apprezzato questa lettera che ha immediatamente preceduto il suo intervento, cioè dei 60 milioni di italiani che improvvisamente hanno scoperto. Io non vorrei, ecco, mettiamola così, non vorrei che questo programma, che oggi era giustamente dedicato a questa tragedia, che in parte certamente lo sarà anche domani, non vorrei che ci dovessimo immaginare un plastico alla Vespa, non so se rendo l'idea, cioè cerchiamo di continuare a viaggiare, se fosse possibile, leggermente al di sopra di queste cose. Qui si affrontano altre tematiche collegate, altri argomenti collegati in ottica più strettamente sportiva alla tragedia sportiva e umana che è accaduta sabato a Pescara. Mi pare che non siamo lontanissimi dalla chiusura, nemmeno vicinissimi, non abbiamo più tempo però di ospitare un altro intervento, nemmeno direi di dare contributi vocali, perché avevamo pronto una spiegazione di Beretta, presidente di Lega, ma per l'appunto credo che sia, ci sarebbe questa ereditata da 3-4 giorni fa, la squalifica a Pelissier per bestemmia. Ecco, magari questa se non è domani e dopo, garantisco che la tiriamo fuori, perché a proposito di sudditanza psicologica, Pelissier è stato squalificato per aver bestemmiato in spogliatoio, no? Se qualcuno ricorda le bestemmie passate inosservate di Ibrahimovic e Buffon in primissimo piano, capite bene a che cosa mi sto riferendo. Nicolò Rinaldi in regia, grazie a Franco Piantalini in redazione. Buon pomeriggio.